posto molto, molto grande per lavorare, quindi molte volte per spostarne una, sai come come funziona in officina, no? Per poterle spostare ci vuole una cosa così. Sì, sì, se c'è poco spazio bisogna cercare di ottimizzarlo, renderlo più funzionale possibile. Ok, e cosa volevo dire? Cioè, lasciamo un attimo in bianco se qualcuno vuole entrare, sempre che capisca che siamo in FM. Vabbè, dimmi, saluto. Ma la modulazione mia com'è? È chiara o è satura? No, è chiara, però c'è sempre un po' di fruscio, molto meglio di prima, però c'è sempre questo fruscio che ti porti appresso. Cappa, dai. Dai, mi sto ascoltando che sto misurando lo stilo della, della Ringo, perché se ho seguito un video di un radioattore che comunque non so se lavorava a Lerm o che cosa, vuole accordata in questa banda, lo stilo vuole messo a 4,78 m, se invece la deve utilizzare in 28 MHz vuole a 4,60 m. Ma che cosa, l'altezza del palo? No, l'altezza dello stilo è regolabile, no, gli stili non lo devi regolare, io li ho messi così a casaccio, non ho rispettato nessuna misura, probabile che entrando tutti dentro l'ho accorciata un bel e la devo allungare, adesso la misura lo metto, sono in quel Rix, ascolto. Ok, vai Claudio. L'ho avuto anch'io la Ringo, eppure a me funzionava bene, insomma mi aveva anche quasi un po' soddisfatto, poi sono passato alla 7-2000 che era come dal giorno alla notte, insomma, era una cosa fantastica quell'antenna, non sono più riuscito a ritrovarla, caspita, neanche in Germania dove la facevano, nulla da fare, non c'è stato verso di ritrovarla proprio. Lì sul marketplace ce n'era una usata, però aveva qualche problema e non l'ho presa, no. Quella è una signora antenna, perché come ricezione alla Mantova rispetto adesso gli fa 5-1 come ricezione. Da notare che allora si parlava all'Isola Rossa, a Villanova, un po' dappertutto con quell'antenna, con questa non ci riesco. Vabbè, c'è da dire Claudio anche una cosa, i tempi sono cambiati, c'è un sacco di disturbo elettromagnetico perché sono le broadcasting che stanno rovinando tutto, cellulare e tutto. Prima con una radio privata con 100 watt coprivi tutto il circondario di 30 km di sassa, adesso con 100 watt non esci dal quartiere, proprio non ti muovi. Infatti basta andare a Monteoro, di che potenze stiamo parlando, che erano impensabili prima, cioè potenze di kilowatt. C'è radio RDS che esce con 50 kilowatt, prima di lì la più potente mondo radio usciva con 2 kilowatt, neanche 1008, ma proprio per farsi sentire, perché le altre erano intorno ai 500 600. Ecco, avanti prego. Avanti, buongiorno a tutti. Gianni da Bolzano da questa parte. Ciao Gianni, buongiorno. Sì, vabbè, è così, è anche per quello, troppo QRM, si è sporcato tutto. Tu figurati che a 100 metri da casa mia c'ho un'antenna che sarà a 30 metri, piena di ripetitori per cellulare, c'è un po' di tutto, macello. Io lo so, le disturbo, se tu ti misuri qualcosa, io ce l'ho, me l'ho messo nel cellulare, il misuratore di coso, di campo elettrico, ti metto le mani in testa, già in casa ti spaventi, cacchio, cosa c'è con le wifi, qualcosa, perché noi ci stiamo lamentando della cellulare 5G e cosa, se entri in casa ti spaventi, cosa ci sono di reti, non solo la mia, di altre reti di coso, che poi trasmettono con potenze abbastanza importanti, e tu se ce li hai vicino, le microonde non è che siano molto, molto utili, soprattutto se stai dormendo. È così. Avanti Gianni. Buongiorno. Ciao, vabbè, buongiorno. Come mi ascoltate in FM? Ottimamente. Segnale ottimo, bomboletta e modulazione chiara e pulita. E tu cosa dici da parte tua invece, Gianni? Io praticamente per ascoltarvi bene in questa radio devo spostare appena il come si dice? Chiamiamolo carifer, dai. Lo devo spostare appena ed esattamente a 73, quasi 74, dai. Sicuramente questa radio non è perfettamente centrata. Però mettere l'attenuatore, magari siamo troppo furti. Il disegnale come ti arrivo a fondo scala? Sentami, Bogli Biciti. Gianni, buongiorno. Ciao Savelio, buongiorno. Vai avanti, Robè. io sono tutto attenuato, ci ho visto ascoltando attenuati di 20 dB, perché sennò mi spaccate lo smitter. Questa è la prova di modulazione, canale 10. Come mi ascolti, Gianni? Guarda, c'è la luce dello smitter che si sta appena appena appoggiando al piede del 30. C'è Saverio, te lo rilancio, vediamo se Saverio riesce a farsi sentire bene dalle nostre parti. Allora Gianni, dove ti trovi? Tu qua sei un segnale 9 più 20, però la radio non ti ascolto bene come ascolto a Roberto e a Claudio a Porto Torres, non so perché. Lo stavo spiegando, sicuramente questa radio non è perfettamente allineata in FM, perché ripeto, anch'io per ascoltarvi mi devo spostare un po'. Niente, no, salve, tu avevi più o meno come Roberto Lai, con la lancetta più o meno si appoggia al più del 30. Ok, ok, vuol dire che la valvola sta funzionando. Ok. Ciao Natalino, buongiorno. Ascolta, ma dove ti trovi tu Gianni? Presti, stazione ferroviaria. Ah, positivo. Però in AM mi arrivi molto molto meglio, alla grande. Bene, bene, avanti Claudio. Sì, come ti arrivo Gianni lì? Guarda, sì, sarei sul 9.15 qua, dai. Comunque ti ascolto bene, anche se, ripeto, devo spostare appena appena il carifer, dai. Comunque ti ascolto tutti bene. Aspettate, è entrato Natalino Alfa 1, andate Natalino. Era solo per vedere come sta facendo in FM, con l'omologato, capito? Con il Superstar 3009. Ma Natalino lo ascolto perfettamente, proprio limpido. Sì, ultimamente anch'io, buongiorno Natalino. Ciao Claudio, ben sentito. Più piccolino sono io, a me mi ascoltano tutti male, vero Natalino? La mazza. Quanto ti arrivo qua, andando un pochettino forte, diciamo, il giocattolo? Quanto arrivo a te Natalino? Forti tutti quanti siete, dai. Però stava, vi siete tutti sovraccavallati, avete parlato in tre. E io ritorniamo in AM, tutti i signori, o se vuole entrare qualcuno non ce l'hanno FM. Andiamo in AM, canale 10 AM. Oh, mi ha suonato quello che ero in su, mi ha toccato il pollo e quasi io ho cotto. Un attimo, un attimino solo, che vi saluto, devo scappare. Vi saluto, casomai ci risentiamo dopo, dopo pranzo, nel primo pomeriggio. Buon proseguimento e saluto, salutone a tutti. Ma se riprendo un attimino, scusate, Claudio di Porto Torres, se ti capita di capire dove l'hai preso quel PC di questo server, mandamelo in radio, me lo dici in radio magari. Ok, ok. Poi stasera gli do un'occhiata. Ehi, ok, ti ringrazio, ti auguro buon pranzo e buon tutto, anche io tra poco vado a mangiare. Vai Natalino, poi cosa? Saverio, e mi sa che non c'è nessun altro. C'è Gianni Lubroffetta. Prima Natalino, poi Gianni e poi Saverio a salutare a cosa? A Claudio di Porto Torres. Ciao Claudio, va, alle prossime. Vi saluto anch'io che me ne passo in crevetti. Al limite ci sentiamo più tardi, là, perché devo andare a fare la nanna. Alle prossime, ciao a tutti. Gianni, ciao, io approfitto di prendere il mic. Buon corretti Claudio, Porto Torres, buon pranzo, buona domenica. Ci sentiamo alle prossime. Grazie altrettanto. Ciao Claudio, ciao Natalino, buona carica e ci si aggiorna. A presto, dai. Adesso è uscito malissimo, c'entra quel carico. Ciao, ciao.